fuori e una celia. Niente affatto. Io l'ho vista. Vista io l'ho. Chi? La dama. Bella, bella. Veste bianca. Il castello. Non capisco. Lo che io so. Principe, se ce l'ho ancora, sono agli ordini vostri. Un duello. A quest'ora. Rider noi vogliamo. Rideste di me. Creditor mio, voi siete. Debitor vostro, egli è. La duca. Un capriccio antico, chi corrente. Ero già stanco, e voi l'amate. Ed io m'affranco. Un servigio gli è d'amico. Gratissimo. Or comprendo l'avventura. Le testa di rottura. Qua la senza d'ancora. Patrocinar vorria un giovane ufficiale. Ma nuove strategia. Lo so più. E perché mai? Perché quel giovane non ha troppo per sé di me. Amate, tu dimentichi l'essenziale. La cena, corra a disporla. Ed io, veglio sul dietro scena, colta la fiamma in trappola, e dentro ci starà. Ma dunque è vero, a me! Sedurlo in tuo favor lo puoi Bye. entrare, nessuno uscir. Questione d'arte, per una parte nuova, è imposto di parlar tosto con la di Glo. Con la di Glo. Vado e ritorno prima di giorno. Allor restate. E dite, amate. Dico che a cena l'alma sirena con noi verrà, poiché le qua. Tacete, è falso, è vero, ciascun potrà cogliere là. Io stesso! Un solo detto! Disegno qui mi condusse e in gioco il futuro mio regno. E la declò. Non è lei, non è lei, lo giuro, sull'onor mio, mi credi? Sì. Ed or ti scongiuro che l'abate non penetri là dentro, ove si cela quella persona. Poscia, con ogni cautela, può disporre una fuga, ma vederla non dei, me lo prometti. Io vengo con lei. Oh, grazie. Addio, Adrià. Che granchio, che bel qui pro quo, non era di Glo. Chi dunque sarà? Silenzio. Segreto di stato. Faceto. Almen lo vedeste. No, tenebre peste. Le mani ci allungo e a un ago mi pungo. Siete? Domanda la voce più blanda. Per chi mi scambiate, colei che cercate non sono. Se tosto fuggirti nascosto mi fate contento sarete di me. Stranissima fe. E poi? Son tornato, che deve si far? Che fare? Vederla? Thank you. Sorry.